No. Ciao ragazzi, ciao. Ciao ragazzi, ciao. Perché non ridete più? Ora sono qui con voi. Ciao ragazzi, ciao. Ciao ragazzi, ciao. Voglio dirvi che. Voglio dirvi che. Che vorrei per me tanti braccia perché finalmente potrei abbracciare tutti voi. Sapete che, voi sapete che nel mondo c'è chi prega per noi, non piangete perché c'è chi veglia su di noi. E dico ciao, amici miei, e voi con me direte ciao. Insieme a me. Noi cantiamo insieme a te. Ciao ragazzi, ciao. Ciao ragazzi, ciao. Voglio dirvi che. Voglio dirvi che. Che vorrei per me. Grandi braccia perché. Finalmente potrei abbracciare tutti voi.